la tarda mattinata del 1 novembre. C'è Veronica al microfono. Era venuta al banlieue a trovare le sue amiche, Chiara e Francesca. E se non avesse parlato con me, avrebbe letto un libro al tavolino. Beh, il mosaichino all'ingresso, perché è un dettaglio sugoso, permanente. È una cosa che quando entri noti, magari non subito, però c'è, quando apri la porta inevitabilmente uno guarda un po' verso il basso per capire se c'è un gradino, se c'è qualcosa, e ti accoglie. È una sorpresa che hai sotto i piedi e fa ridere perché c'è scritto voilà, vabbè, che chiama il nome però, e mi piace. E poi in realtà ci sono tante cose qui, perché è un insieme di... e cambia stagionalmente come la direzione artistica.